Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Le start-up al femminile possono nascere in ogni momento della vita di una donna, da giovanissime o dopo un'esperienza lavorativa o in occasione della maternità. In ogni momento però la parola d'ordine è una, c'è una sola strada, sia al maschile sia al femminile, per diventare imprenditori, ed è quella di mettere in pratica idee vincenti da soli o con l'aiuto di enti, associazioni, business angels, università, per un cambiamento vero. Ma di sicuro le idee funzionano se vanno incontro a una reale domanda e risolvono problemi reali. L'idea si chiama Risparmio Super ed è semplice: la comparazione dei prezzi della spesa. È venuta Barbara Labate, 36 anni, siciliana, che nel 2011 ha fondato la sua società e oggi conta su numeri invidiabili: 300.000 utenti, 200 milioni di download dell'app per cellulari, 10.000 punti vendita e 49 catene di grande distribuzione coperte. Barbara Labate ci spiega come funziona. Ero negli Stati Uniti, stavo facendo un master alla Columbia University e avevo pochi soldi, un po' come tutti gli studenti. Poi New York è particolarmente cara, per cui studiando una teoria economica dell'informazione asimmetrica, i consumatori, quando non hanno determinate informazioni, tendono a prendere delle decisioni errate. Ecco, io mi sentivo quel consumatore che, non sapendo quali erano i prezzi dei supermercati nella mia zona, New York, che non conoscevo, finivo per andare sempre più vicino e quindi compravo così. Non avevo una conoscenza dell'andamento dei prezzi, se era un prodotto era caro, se era economico, e mi domandavo: ma io potrei effettivamente risparmiare sulla spesa di tutti i giorni se sapessi, prima di andare nel punto vendita, quali sono i prezzi e quindi potessi scegliere? Un po' come ormai si confrontano i voli, si confrontano le assicurazioni, si confrontano i mutui. Ecco, l'idea di confrontare i supermercati nasceva da un'esigenza personale. Come hai messo in piedi questa idea? Beh, negli Stati Uniti, all'università, ovviamente il mondo imprenditoriale, start-up, venture capital, insomma, era molto vivo e molto reale. Cose che invece, tornando in Italia, non sentivo, non conoscevo e non avevo mai avuto contatti. Per cui per diversi anni l'idea è rimasta nel cassetto, nella mia presentazione che avevo fatto a fine corso, per poi cercare di realizzarla. E inizialmente abbiamo investito io e il mio socio, comunque, soldi risparmiati, quindi i nostri risparmi, nell'idea, per creare una versione di test. E abbiamo cercato di capire se poteva interessare agli utenti finali, ai consumatori, e poi a quel punto abbiamo iniziato a partecipare ad alcune iniziative, competizioni per business plan, competizioni per startup, e entrare in contatto con i primi investitori a livello nazionale. Quello che è particolare nel tuo curriculum sono i contatti che hai avuto a New York. Chi hai incontrato, che cosa hai visto e poi che cosa ti è servito? Ho incontrato premi Nobel come professori, ho incontrato alcuni tra i più grandi venture capitalist dell'area di New York, ho incontrato grandi imprenditori. Uno dei miei professori era il fratello del proprietario della Dell, ecco, questo per dire. Un altro professore era Stiglitz, premio Nobel per l'economia. E ho incontrato imprenditori, e alcuni di questi poi mi hanno addirittura messo in contatto con delle persone in Italia che sono diventati tra i nostri primi investitori senza saperlo. Ci siamo ritrovati dopo 10 anni. Voi siete riusciti a mettere in piedi però una cosa che aiuta anche gli altri, perché fate risparmiare grazie a risparmiosuper.it. Questi risparmi quanto pesano nelle tasche? Beh, noi abbiamo calcolato che su un anno, utilizzando costantemente Risparmi Super, è possibile risparmiare fino a 1.000 euro. Questo perché un po' si possono scegliere i prodotti particolarmente economici in offerta, e quindi, non so, ho bisogno di pannolini, ho bisogno di acqua, ho bisogno di pasta, si fa un po' di stock a casa e si risparmiano diversi euro. E un po' perché si riesce anche a ottimizzare su una lista della spesa di 20-30 prodotti il supermercato che oggi risulta più economico. Quindi oggi potrebbe essere un supermercato, domani un altro, sempre nella propria zona, senza bisogno di prendere la macchina, senza bisogno di spendere in benzina. Tutto quello che succede attorno a casa nostra o il punto dove ci troviamo. Ecco, questa è la convenienza per chi vi frequenta. Invece i vostri guadagni, le vostre revenue, da che cosa arrivano? Qual è il vostro modello di business? Beh, sicuramente da un advertising, quindi pubblicità fortemente targetizzata e geolocalizzata. Questo modello di business che cosa sperate che arrivi a fare in futuro? Beh, ovviamente le funzionalità che si possono aggiungere soprattutto con i terminali mobili sono enormi e questo ci permetterà di raggiungere il consumatore nel momento in cui sta per acquistare con sconti, promozioni, informazioni relative ai prodotti che stanno per acquistare. Quindi nella nostra visione di come diciamo così, si evolverà il servizio sarà sicuramente molto legato a una disponibilità in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione dei dati di queste informazioni e prezzi durante l'esperienza di shopping dell'utente. Clipit è il primo social network italiano che aggrega i protagonisti del mondo dell'arredo. Elenia Rotundo, una giovane designer torinese, ha messo in piedi infatti una startup innovativa, cresciuta con il sostegno dell'incubatore d'impresa I3P del Politecnico di Torino e attualmente accompagnata da Réseau Entreprendre Piemonte. Nel luglio 2012 si è classificato terzo per l'area nord-ovest del concorso Il Talento delle Idee 2012, promosso da Unicredit e dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, per sostenere i giovani imprenditori italiani in grado di produrre idee innovative. La storia di Elenia Rotundo. È nata all'incirca un paio di anni fa. Io sono la fondatrice e sono una designer di formazione, quindi da una mia necessità avevo bisogno di valutare la fattibilità dei miei progetti. Quindi abbiamo creato questa piattaforma che di fatto promuove e mette in vendita prodotti creati e realizzati solo da imprese artigiane e da giovani progettisti italiani. Li mettiamo sul web e li vendiamo. La rende, diciamo, innovativa il fatto che ribaltiamo un po' i paradigmi standard dell'e-commerce, quindi invece di entrare e cercare il divano che preferisci all'interno di un catalogo e-commerce, puoi entrare, scrivere come desideri il divano per casa tua e a quel punto sono i produttori che ti inviano le loro offerte. Come avete fatto a mettere in piedi questa idea? Quali sono stati gli step e chi vi ha aiutato? Siamo partiti grazie alla regione con il MIP, che a me vuol dire lo sportello di impresa a mettersi in proprio. Da lì siamo passati attraverso l'incubatore con un progetto all'interno del concorso di idee Startup, che è un concorso nazionale. Ci hanno selezionato all'interno dell'incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, l'I3P. Quindi abbiamo fatto un percorso di crescita all'interno e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di capire se l'idea aveva senso. Ecco, diciamo, grazie a loro abbiamo capito se era fattibile o no. Oltre all'I3P siamo poi ad ottobre del 2012 entrati dentro il Réseau Entreprendre Piemonte, che fa parte del gruppo di Fondazione Michelin, finanziato diciamo dal gruppo Fondazione Michelin, e abbiamo vinto un premio su scala nazionale. Siamo arrivati terzi in area nord-ovest al Talento delle Idee Unicredit, che è stato questo concorso su scala nazionale per startup, e abbiamo fatto proprio un percorso anche di crescita, una startup academy di una settimana a Milano, di formazione proprio sulla gestione e il mantenimento anche dell'impresa. Voi siete anche un'impresa diffusa e utilizzate il co-working. Che cosa vuol dire per voi? Diciamo che quello che facciamo noi con le imprese artigiane online, quindi quelle di metterle in collaborazione, di creare una filiera sul web, lo facciamo anche sul territorio come start-upper, quindi ci confrontiamo con altre start-up simili alle nostre, lavoriamo, siamo stati in un periodo all'interno di 3P in co-working, quindi con altre start-up con le nostre stesse esigenze, cioè quelle di capire come far funzionare al meglio la propria impresa, e condividendo con loro tutti i giorni la quotidianità e la curiosità, diciamo, sull'impresa. Facciamo rete di imprese anche con altre start-upper, sempre nel nostro settore, su tutta Italia. Abbiamo ricevuto alcune menzioni sul territorio all'innovazione, facciamo presentazioni aziendali in tutta Italia, andiamo in giro ancora per le fiere a presentarci, a farci conoscere a tutti i produttori di mobili e complementi d'arredo. Ovviamente da startup abbiamo ancora l'esigenza di, siamo alla ricerca di fondi di investimento. Voi date un pacchetto chiave in mano a chi non potrebbe farsi tanta rete, diciamo, di clienti, fondamentalmente siete un volano, no? Sì, li aiutiamo più che altro a conoscere gli strumenti web. Diciamo che spesso e volentieri da parte dell'artigiano c'è un po' di diffidenza, hanno paura ad approcciarsi a questo mondo del web, in realtà basta semplicemente spiegargli e creare uno strumento semplice da utilizzare. Questo è quello che noi facciamo, diamo un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se hanno problemi a caricare prodotti o a descriversi noi li aiutiamo e li supportiamo anche nella creazione delle immagini, delle foto, dei video. E questo è anche conveniente rispetto ai mezzi tradizionali, no? Certo, certo, perché una pagina web, noi abbiamo un abbonamento annuale ti viene pagato, che permette sia di avere la vetrina, di poter mettere i video, di far vedere le lavorazioni che vengono fatte, e ovviamente tutto questo è virale sul web, quindi piace molto sia loro sia chi vuole poi acquistare prodotti dai nostri produttori. Le aziende artigiane sanno fare benissimo i loro prodotti, ma non li sanno comunicare molto bene, noi li aiutiamo in questo. E ora cercate idee che siano soluzioni per il nostro quotidiano. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.